Assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì. Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì. E vai con potere alla parola nella casa. E allora buonasera, ciao, ciao a tutti amici e amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Siamo sempre qui, siete tornati nello spazio settimanale dedicato alla stampa rassegnata, che è uno spazio radio che possiamo considerare, potete guardare, considerare come una sottocartella della trasmissione Passaggio a Nord-Ovest, nella quale nello specifico ci soffermiamo sulle questioni relative alle due vertenze popolari, alle lotte che animano la nostra piana fiorentina contro la costruzione dell'inceneritore di Case Passerini o inceneritore di Firenze e nello specifico anche la vicenda aeroportuale. Ovviamente poi il nostro sguardo spazia rispetto a quello che ci sembra interessante, declinando e soffermandoci su gli avvenimenti appunto della, diciamo, della cronaca locale. Questa settimana le nostre cronache, che come sapete hanno solitamente hanno un fisiologico ritardo di una settimana dovuto al fatto di permetterci di dedicarci un po' a quello che è lo studio della notizia, la lettura dei giornali, il commento il più possibile critico e ragionato. Questa settimana appunto prenderemo in esame notizie o fatti accaduti più o meno tra lunedì 19 di marzo e la domenica 25, mentre le nostre parole, le nostre cronache dallo studio diffuso di Radio Wombat saranno trasmesse lunedì 26 in diretta alle 15.30, mentre le repliche ci saranno il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, sempre alle 15.30. Altrimenti, per chi non avesse tempo per ascoltare in streaming o ancor meglio, forse con più entusiasmo attraverso le onde medie sulla modulazione di frequenza del 1359, ci potrebbe ascoltare durante la settimana, solitamente lo carichiamo di mercoledì, ma non è necessariamente una ritualità, ci può ascoltare scaricando il podcast della trasmissione che verrà poi messo sul sito della radio. Cominciando più o meno a leggere le notizie di cronaca, vorrei cominciare da un piccolo fatto che apparentemente poco importante, ma che rispetto a molti ragionamenti che in questi due mesi nei quali ho cominciato questo mio spazio radio hanno sempre avuto una certa rilevanza. Forse vi ricorderete che avevamo già commentato a inizio dell'anno una notizia che era comparsa sui giornali di una sfilata importante, insomma, che chiaramente sulla quale la cronaca locale, i giornali, media mainstream e non solo avevano costruito come un evento di grande importanza e grande rilevanza, che è stata la sfilata dell'azienda Brooks Brothers, che ha celebrato dentro Palazzo Vecchio, appunto con una sfilata, il suo 200° compleanno, il 10 gennaio appunto del 2018, durante l'edizione di Pitti. Questi Brooks Brothers hanno, diciamo, preso in affitto il Palazzo Vecchio per una loro sfilata. Ecco, diciamo, avevamo in qualche modo denunciato questa vicenda, sottolineando, come spesso facciamo rispetto a cose di questo genere, l'utilizzo del patrimonio storico-artistico pubblico a scopo privato, cosa che ci sembra sempre e ricorrentemente grave e pesante, anche ammesso che diciamo, il pubblico ottenga una contropartita per il prestito del proprio patrimonio. Sarebbe, appunto, lo consideriamo comunque grave, perché sarebbe comunque una sottrazione del patrimonio, a maggior ragione se poi i conti non tornano. Dicevo, ho introdotto dicendo che è una notiziola, nel senso che è una denuncia che viene fuori dalla newsletter di Tommaso Grassi, che, appunto, come spesso succede per le vicende legate al palazzo, le notizie non escono facilmente, quindi lo apprendiamo così. Ma che cos'è che apprendiamo? Apprendiamo che i conti non tornano, come giustamente ha denunciato Tommaso, su questa sfilata, perché nell'atto deliberativo si parla di esenzione totale dal pagamento del canone di locazione e di richiesta al privato solo ed esclusivamente del rimborso spese per utenze, personale e pulizie. Quindi, praticamente, mentre era stato annunciato ovviamente dal nostro eroe, Sindaco Nardella, che l'affitto dei Brooks Brothers per la sfilata in Palazzo Vecchio doveva essere di 98.000 euro, cifra comunque in effetti già di per sé non particolarmente elevata né assolutamente esosa, tenendo conto di quello che è il rientro di immagine per l'utilizzo del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio per una sfilata, tenendo conto appunto di quello che è il valore aggiunto dell'immagine dell'esposizione mediatica di eventi come questo. Quindi già calcolare 98.000 euro non era neanche una grande cifra, ma addirittura nell'atto deliberativo, come denuncia appunto, ripeto, Tommaso, non c'è traccia del canone di locazione, ma solo del rimborso per le utenze e il personale e le pulizie. C'è poi un altro elemento che non torna. Dopo l'evento è stato pubblicato l'atto che detta le regole della sfilata nel Salone dei 500 e si ha la sensazione che quanto autorizzato non corrisponda a quanto realizzato. Quindi, ecco, l'altro elemento che ci sembra appunto significativo sollevare è proprio questo, cioè l'atto deliberativo arriva dopo che l'evento è già stato realizzato. Quindi prima si realizza l'evento e poi si decide, si discutono o si mettono nero su bianco le modalità e i termini che lo dovrebbero regolare, quando ormai è già avvenuto. Se tutto questo non bastasse, c'è anche un altro piccolo torto che viene fatto contro, diciamo, tutti coloro che vorrebbero o in quei giorni avrebbero voluto visitare il Salone dei 500, e non solo il Salone, perché appunto, come è immaginabile, l'allestimento di una mostra prevede appunto poi scenografie, insomma, movimentazione cose, quindi diciamo il palazzo diventa anche. Insomma, assume una veste che non gli è propria e quindi c'è una movimentazione di logistica che impegna stanze e anche altri spazi, quindi viene fatto in qualche modo un torto a coloro che avrebbero voluto visitarlo in quei giorni. Quindi veniva annunciata la chiusura per un solo giorno, e invece così non è stato. Non coincidono infatti i provvedimenti di chiusura presenti nella delibera con quanto è realmente accaduto. Il sindaco Nardella sempre aveva detto, insomma, aveva dichiarato che i locali sarebbero stati inaccessibili per l'uso del Salone dei 500 per la sfilata il giorno del 9 gennaio. In realtà sono stati proprio anche fotografati per supportare la denuncia il fatto che dei cartelli annunciavano la chiusura dall'8 e che poi diciamo, la fase dello smontaggio e del trasporto fuori di quelle che erano appunto le strutture che avevano permesso la realizzazione della sfilata è finito sostanzialmente per il 12, nella mattina del 12, quindi fino all'11 possiamo considerare che dall'8 all'11 il Salone dei 500 non è stato visitabile, è stato di fatto sottratto al turismo, compreso anche quello che, se vogliamo considerarlo turismo, consideriamocelo pure, però è anche un'altra forma che è quello dell'utilizzo del patrimonio a scopo, diciamo, didattico e di crescita e di formazione del cittadino, per esempio quello realizzato dalle scuole, quello realizzato dagli abitanti che in varie forme, in gruppi o in singoli, possono andare a vedere e a goderselo. Vicenda questa che appunto mi sembrava così da sollevare, proprio perché in qualche modo è una di quelle notizie che fanno le frange del tappeto, cioè le cose che non appaiono, eppure sono interessanti da vedere proprio per le cose che abbiamo detto, riguardanti appunto questo utilizzo del patrimonio a scopo privato, che come vediamo è di fatto è anche selvaggio, cioè non è regolamentato e si sottrae a ogni ipotesi di controllo pubblico, facendo poi, direi, stavo per dire entrando in contraddizione, ma forse in realtà possiamo dire che c'è una certa coerenza, una certa linearità, nel momento in cui, per esempio, i lavoratori degli Uffizi o di altri, diciamo di altri spazi legati alle visite al turismo sono entrati in sciopero, qualcuno ricorderà lo sciopero annunciato dai lavoratori appunto del comparto dei beni culturali annunciato a Firenze nel 2015 nel periodo pasquale, che fu oggetto di una polemica veramente immensa di tipo insomma, nazionale per il fatto che appunto che era inaccettabile che lo sciopero negasse e spegnesse una città e negasse il patrimonio storico, artistico e culturale ai turisti. Ecco, ci chiediamo se come mai, non se, ma come mai in questo caso nel momento in cui il Palazzo Vecchio, il Salone dei 500, che è sicuramente uno dei gioielli, uno dei luoghi e degli spazi più visitati sia all'interno del Palazzo Vecchio, ma anche all'interno della Firenze tutta e di tutto il suo patrimonio artistico e culturale visitabile, nel momento in cui è stato sottratto ai comuni turisti per l'utilizzo a scopo privato da parte dei Brooks Brothers, come mai questo non diventa oggetto di polemica? Cioè, certamente lo sappiamo e ce lo possiamo tranquillamente spiegare, tant'è che appunto non c'è contraddizione tra le due cose, ma anzi assoluta coerenza, no? Rispondono appunto a un modello di utilizzo privato. E anche quando ci si scandalizza perché i lavoratori fanno sciopero e sottraggono il turismo, non si pensa tanto ai diritti dei turisti, messo tra mille virgolette, ma si pensa alla corresponsione in denaro che i turisti portano nelle casse del polo museale piuttosto che del polo espositivo. Quindi questo conflitto appunto tra il polo espositivo e il polo museale è stato evidenziato da questa notizia che abbiamo dovuto ricevere e cercare da una denuncia interna alle dinamiche del palazzo, altrimenti da lì probabilmente non sarebbe neanche uscita. C'è poi in questa settimana le cronache locali, come chi in qualche modo ha semplicemente sfogliato i giornali o d'altronde rivolgendo le nostre cronache dentro Radio Wombat, per lo più a un pubblico di amici, compagni, conoscenti, frequentatori del movimento fiorentino, non sarà certamente sfuggita la vicenda che ha visto come protagonista lo spazio occupato autogestito a Firenze, CPA di Firenze Sud, il Centro Popolare Autogestito di Firenze Sud, che è stato oggetto di una mozione in consiglio comunale che ne chiedeva lo sgombero. A seguito della presentazione avvenuta dentro il centro sociale, cioè del centro popolare, del libro di Barbara Balzerani, insomma, di un libro di Barbara Balzerani, un ultimo libro, un suo ultimo romanzo. Ha scritto diversi libri, un suo ultimo romanzo è uscito per Deriva Prodi, che veniva presentato al CPA nel 40° del rapimento Moro. Vicenda appunto che ha meritato le cronache, ha meritato anche appunto l'impegno, ha visto molti comunicati di solidarietà, molte prese di posizione nei confronti del Centro Popolare. Due, tre parole, oltre a tutto quello che già è stato detto e che non possiamo in qualche modo che sottoscrivere anche. Diciamo, sottoscrivere così metaforicamente, non avendo niente di scritto, ma non possiamo che appoggiare come, appunto, come aspetto solidale anche da questi microfoni, semplicemente due parole rispetto da aggiungere a quello che mi sembrano comunque degli elementi in qualche modo da sottolineare. Un aspetto che volevo portare all'attenzione è quello, diciamo, della dinamica del voto, nel senso che è stata una mozione presentata dalla destra del Consiglio Comunale, quindi dai Fratelli d'Italia, Forza Italia, e che il Partito Democratico, quindi la maggioranza del Consiglio Comunale, ha poi sposato per trasformarla e darle i numeri che poi l'hanno resa appunto una mozione appunto approvata dalla maggioranza del Consiglio. Una dinamica che ovviamente non ha particolarmente stupito, perché è facile che destra e sì, ancora così la possiamo chiamare sinistra istituzionale, ma più semplicemente, più tranquillamente, più oggettivamente chiamiamolo Partito Democratico, si sono ritrovate unite rispetto all'ipotesi di sgombero di uno spazio autogestito, in questo caso il Centro Popolare Autogestito, ma poteva tranquillamente essere un altro. Dall'altra parte, diciamo che ha funzionato, o meglio, ha riconfermato una prassi che è stata vista più volte e che ultimamente, proprio sui temi della sicurezza, del decoro, o della tutela del decoro, di quella che chiamano politica antidegrado, o comunque politiche ordiniste di ordine pubblico e sicurezza, aveva già funzionato per quanto riguardava la mozione che è stata presentata e poi approvata sulla sicurezza partecipata, che ve la vado più o meno a leggere, diciamo leggendola anche un po' dall'articolo di cronaca, articolo di cronaca che ho ripreso da una cronaca che avevo già selezionato e che poi non avevo avuto il tempo di commentare, insomma, nello spazio radio di quel periodo, che è del 20 febbraio 2018, dal Corriere Fiorentino, che dice: sia i volontari per la sicurezza, ma non sono ronde, ci mancherebbe altro, no? Quindi c'è questo aspetto così di scansarsi subito dalle ronde che invece caratterizzarono una fase del centrodestra quando c'era il governo Berlusconi, che anche in Toscana, insomma, ebbe insomma, le sue vicissitudini. Il Consiglio, si parla del Consiglio Comunale di Firenze, approva la mozione prima proposta da Fratelli d'Italia e poi modificata. Dice, quindi, che succede? Via libera del Consiglio Comunale alla possibilità di coinvolgere associazioni di volontariato nelle attività a supporto di Polizia Municipale e Forze dell'Ordine, ma niente ronde. L'Aula infatti ha approvato una mozione presentata da Fratelli d'Italia e modificata dal PD sulla sicurezza partecipata, cioè sul fatto che associazioni riconosciute possano segnalare problemi di degrado e sicurezza a chi è preposto ad intervenire, cioè forze dell'ordine e vigili. L'esatto contrario delle ronde, sottolineano dalla maggioranza renziana del gruppo consiliare DEM. Niente, quindi questa è l'idea, cioè quella di appunto in qualche modo integrare il contributo di cittadini particolarmente zelanti da questo punto di vista e coinvolgerli nel controllo del territorio. Per certi aspetti niente di eccessivamente nuovo rispetto a meccanismi già in atto da tempo. Sappiamo con certezza, insomma, che si diffondono nei quartieri pratiche di, diciamo, per certi versi di auto-organizzazione rispetto a questioni legate alla sicurezza, cioè gruppi di cittadini che si scambiano, formano gruppi agevolati anche dai social o dalle chat, per esempio da WhatsApp, quindi gruppi su WhatsApp nei quali abitanti di caseggiati o luoghi che hanno subito dei furti, insomma, si sentono, si scambiano pareri, si scambiano informazioni su quelli che sono stati i furti nella zona, movimenti sospetti e cose di questo genere. Da questo punto di vista, la proposta che viene fuori da Forza Italia e poi viene sposata dal PD e trasformata in mozione, che poi diventa, di fatto, appunto diventa di fatto regolamento cittadino, è quella della sicurezza partecipata, cioè di ufficializzare la possibilità che dei, diciamo, comuni cittadini e associazioni di abitanti e di cittadini possano lavorare ufficialmente nel controllo del territorio, così come in qualche modo ho detto già sta avvenendo. La sicurezza partecipata attraverso associazioni riconosciute o dal Ministero o dall'elenco regionale delle associazioni sociali o della protezione civile, rivolgendosi, cioè ai cittadini che possano segnalare alle forze dell'ordine situazioni di degrado e relative alla sicurezza. Pensiamo, questo dicono sempre dal Comune, pensiamo a convenzioni quadro come quelle che abbiamo già con i carabinieri in pensione o le guardie zoofile, passando sempre prima dal COSPE, il Comitato per la Sicurezza, diretto dal prefetto che dia il suo parere positivo. Quindi appunto c'è un'integrazione subalterna di associazioni di cittadini che possano lavorare nei termini, in questi termini. Quindi niente, volevo portare questa notizia sia per quello che rappresenta in sé, cioè appunto in qualche modo un'evoluzione o un'estensione del modello di coinvolgimento della cittadinanza all'interno di queste tematiche della sicurezza e dell'antidegrado, cosa che con assoluta tranquillità e certezza voi tutti sapete che non avviene con la stessa, con lo stesso zelo, con la stessa intensità e con la stessa predisposizione da parte dell'amministrazione comunale fiorentina rispetto ad altre questioni, cioè il coinvolgimento dei cittadini che viene sempre citato e sbandierato non avviene quasi mai su nessun altro aspetto, ma quando si parla di sicurezza e antidegrado noi vediamo gli angeli del bello a cui si spalancano le porte delle scuole di ogni ordine e grado, soprattutto delle superiori, non casualmente, legate appunto alla tutela della scuola, la pulizia della scuola, le campagne contro il muralismo e non il moralismo, il muralismo e il writing. Ecco, e questo è in buona sostanza. Dall'altra parte l'ho citata in qualche modo come virtuoso esempio di renzusconismo già operante. Ecco, già aveva funzionato questa, diciamo, sinergia tra Forza Italia e Fratelli d'Italia su questa mozione e l'abbiamo vista riconfermarsi per quanto invece ha riguardato la vicenda del CPA, per il quale è stato richiesto lo sgombero a seguito dell'intervento della Balzerani. Diciamo un altro elemento, secondo me, che merita un commento volante e passante rispetto a questa vicenda è in qualche modo il prosieguo di una mai sopita voglia di vendetta da parte dello Stato rispetto non solo alla Barbara Balzerani, nello specifico come militante anche per alcuni aspetti anche particolari dell'esperienza storica delle Brigate Rosse, ma rispetto a tutta la generazione degli anni 70 e rispetto a tutto quel periodo di enorme, grande esperimento e tentativo di assalto al cielo che le classi subalterne hanno tentato proprio diciamo nel periodo tra la fine dei 60, quindi diciamo 68-69, fino all'esaurimento negli anni fine 70 e inizio degli anni 80. Quindi quel quasi quindicennio di anomalia italiana che si è presentato nella forma della sinistra extraparlamentare, della nuova sinistra, di una revisione importante e profonda anche delle categorie marxiane, delle teorie, della nascita e l'estensione del paradigma operaista, o comunque di tutta una serie di effervescenze sociali, ideologiche e culturali che in quegli anni si sono sviluppate mettendo fortemente in discussione lo status quo, per quanto riguarda le vertenze economiche, le lotte salariali, per quanto riguarda la vicenda, delle lotte di emancipazione e di liberazione della donna e delle donne dal patriarcato, per quanto riguarda la messa in discussione dei rapporti tra giovani e adulti, tra bambini e grandi, tra discenti e docenti, quindi tutta una serie di rovesciamenti dialettici che in quegli anni si sono intensificati in tutti i sensi e che chiaramente in questa vicenda, nelle accuse che si sono mosse contro la Balzerani e poi contro il CPA, credo che vada letta e possa essere interpretata anche sotto questa luce, cioè da una parte il tentativo consolidato e più volte visto e che è stato messo in opera di ridurre tutta l'effervescenza degli anni 60-70 all'esperienza del cosiddetto terrorismo rosso, quindi diciamo astraendolo dal contesto. Facendo ovviamente sostanzialmente facendoli passare come dei pazzi, bestializzandoli come delle persone assetate di sangue e appunto astraendo dal contesto che di fatto invece no, come ogni fenomeno storico va calato in quel contesto, ma a maggior ragione la scelta anche armata compiuta non solo dai militanti delle Brigate Rosse, ma da tutta una serie di organizzazioni clandestine e non va ricondotta necessariamente perché possa essere compresa senza psicologismi o categorie moralistiche, va ricondotta invece allo scontro materiale in atto nel quale i primi a passare a forme di vera e propria guerra, guerreggiata e guerra sporca, sono state invece proprio lo Stato italiano attraverso i servizi segreti e la manovalanza fascista. Tutta una serie di fenomeni, di iniziative, di stragi, a partire appunto dalla strage di Piazza Fontana, sui quali poi si sono scritti fiumi d'inchiostro e negli ultimi anni anche prodotte revisioni di tipo filmico o serie TV nelle quali si occhieggia una o ad altre versioni che poi praticamente hanno mandato in assoluzione nell'immaginario collettivo i fascisti e i servizi segreti e per riconfermare questa tesi, no? Quindi quella del terrorismo, di un terrorismo rosso teleguidato, quindi facendo poi complottismo e le dietrologie più incredibili dietro alle organizzazioni combattenti e poi riducendo, come dicevo, che mi sembra l'aspetto più significativo e importante da dire, tutta l'effervescenza degli anni 70 a quel tipo di esperienza lì. Questo non è affatto vero, quindi diciamo il mio intervento vorrebbe essere così, se, per quello che è possibile, incuriosire, rendere omaggio e veridicità e rimettere i piedi per terra per quello che è il rispetto a una generazione che indubbiamente avrà fatto degli errori perché di fatto è stata sconfitta e anche l'esperienza, per esempio, carceraria della Barbara Balzerani, tanto citata in questa settimana di cronache locali, lo dimostra, insomma, è stata arrestata, se non sbaglio, nell'85, insomma, ora non potrei sbagliarmi nei numeri, credo che abbia fatto una 20 o 21 anni fino alla libertà condizionata per poi rientrare nella libertà definitiva e quindi insomma, finire la sua appunto la pena nel 2011, quindi mi pare che calcolando siamo intorno ai 25-26 anni di carcere, quindi sono esperienze di vita che hanno pagato tutto quello che dovevano pagare con lo Stato, come se appunto una generazione non avesse pagato a sufficienza in termini di torture psicologiche, ovviamente anche fisiche per alcuni, come sicuramente lei che è passata per le carceri, per il circuito delle carceri speciali istituito dal generale dalla Chiesa, insomma, tutta una serie di esperienze sulle quali se qualcuno avesse degli ascoltatori, avesse dei dubbi o delle curiosità, c'è una sterminata bibliografia e uno sterminato volume di informazioni autentiche, non edulcorate, non revisionate, accessibili nelle biblioteche di movimento, negli archivi storici tenuti in piedi a fatica da compagni, compagni e compagne, compresi i compagni e le compagne del centro popolare, ai quali rivolgersi per guardare e appunto ricostruire il filo rosso di questa memoria storica che deve durare e deve comunque portare rispetto all'esperienza di chi in quegli anni ha tentato un assalto al cielo in quelle forme, comprese quelle del combattentismo comunista, che sulle quali al limite saranno le classi subalterne a discutere, non certo i Nardella o i Fratelli d'Italia. Quindi ecco. Intorno alla vicenda appunto della Valserani c'è anche questo, insomma, nell'autogestione, e l'autogestione è anche lo spazio in cui si discute, i subalterni discutono delle forme, delle pratiche, della propria liberazione, delle proprie lotte, senza dover chiedere il permesso ai padroni, ci mancherebbe altro. Quindi sicuramente in questo, ecco, la vicenda della Valserani al CPA è stata esasperata non casualmente, proprio perché se ne parlava in uno spazio autogestito. Sappiamo, come è stato giustamente fatto notare sempre in questa settimana di, tra virgolette, di polemica sulla vicenda, che la Balzerani, per esempio, era stata invitata alla biblioteca dell'Isolotto, polemiche che quelle che ci sono state, che assomigliavano e assomigliano a quelle che accompagnarono le prime uscite di Renato Curcio, quando, appena uscito appunto, appena finito di scontare le proprie pene detentive, aveva cominciato a riscrivere per la casa editrice Sensibili alle Foglie i suoi lavori di cantieri sociali. Quindi, il primo libro, L'azienda totale, fu una delle prime occasioni con cui Renato girava nuovamente l'Italia dopo appunto l'esperienza chiusa e più che chiusa. Del ciclo di lotte degli anni 70 e venendo a Firenze da Don Santoro al centro sociale Il Pozzo delle Piagge ci furono polemiche simili. Quindi queste polemiche mi hanno un po' assomigliato, però c'è differenza tra la presentazione del libro di Barbara Valserani alla biblioteca dell'Isolotto e invece una discussione fatta in un centro sociale o in uno spazio autogestito, proprio perché all'interno di uno spazio autogestito si discute senza chiedere il permesso. E questo aspetto di discussione libera dei subalterni, sulle esperienze di altri subalterni che hanno sicuramente messo in discussione l'ordine e lo stato di cose presenti, a qualcuno non piace. A noi questo non ce ne frega assolutamente un cazzo e l'autogestione la difendiamo, la difenderemo sempre e è quello che deve andare avanti. Quindi chiudo su questa appunto vicenda. Avendo espresso, credo, più che esaurientemente la nostra vicinanza al centro popolare e anche alla generazione dei 70, nonostante gli indubbi errori compiuti. E andiamo avanti su altre vicende non meno importanti. Questa settimana è stata una settimana cruciale, insomma, no. Cruciale forse è eccessivo, comunque sicuramente importante. C'è stata una forte esposizione mediatica per quanto riguarda le vicende legate alle grandi opere e alle infrastrutture che appunto aleggiano come sempre su Firenze. Questa settimana c'è stato anche sciopero e manifestazione dei lavoratori del cantiere TAV della stazione Foster, sarà tra via circondaria, sì, insomma, cantiere della stazione Foster in via circondaria, perché ci sono insomma grossi problemi per quanto riguarda la loro, diciamo, il padrone che è Condotte SPA, a seguito dell'arresto di Duccio Astaldi, il capo della società. Vorrei quindi andarvi a leggere e ve lo leggerò tutto perché credo meritino parola per parola, visto che ci sono riportate alcune delle diciture, insomma delle inchieste in corso da parte del GIP. Lo vado a leggere tutto, un articolo di qualche giorno fa che in una delle cronache precedenti non ho avuto il tempo di leggervi, del Corriere Fiorentino del 15 marzo. Dice: arresto Astaldi, il GIP, verificate tutti gli appalti di Condotti. Il capo della società che sta realizzando la TAV a Firenze è accusato in Sicilia di aver pagato mazzette camuffate da consulenze. E vado a leggervi l'articolo fatto da Franca Selvatici. L'arresto in Sicilia per corruzione di Duccio Astaldi, presidente di Condotte SPA, ha suscitato molte preoccupazioni sulla possibilità di ripresa dei lavori per la realizzazione del tunnel sotto Firenze. Ma l'inchiesta della Procura di Messina sull'appalto di tre lotti dell'autostrada Siracusa-Gela suscita preoccupazioni anche più gravi sugli effetti del sistema corruttivo sulla qualità delle opere. Dalle indagini emerge una spregiudicatezza criminale non comune, un radicato disprezzo per il rispetto della legge e un'organizzazione a delinquere che ha inevitabili proiezioni. Lo scrive il GIP, questo lo scrive il GIP, di Messina Salvatore Mastroeni, che perciò sollecita una verifica, almeno di massima, su numero e tipi di appalti gestiti dai soggetti autori di reati in corso di accertamento in un solo appalto, quello siciliano. Astaldi è accusato, con altri, di aver stanziato 1.650.000 euro ricavati dagli anticipi di denaro pubblico per i lavori autostradali, per subappaltare servizi di consulenza legale e contabile alla società Pachira Partners di Milano, società che per l'accusa è stata l'intermediaria e il paravento per il passaggio di tangenti, camuffate da consulenze, in particolare in favore dell'avvocato Antonino Gazzarra, vicepresidente dell'ente appaltante Consorzio Autostrade Siciliane. In una delle conversazioni intercettate, un ingegnere di Condotte si preoccupa. Si prendono i soldi? So soltanto che è un metodo d'azzardo. Se si viene a scoprire, il suo interlocutore, uno dei legali di Condotte, commenta: per fortuna nascondono, stai a sentirmi? L'hanno sempre fatto. L'hanno sempre fatto. È questo che suscita l'allarme anche per la qualità delle opere, scrive GIP di Messina. Tutto grave, come si analizzerà. Ma una delle cose che più colpisce è la creazione di un fondo con i soldi pubblici degli appalti, per consulenze e contatti, una riserva per tangenti e per corrompere funzionari alla luce del sole e, ancor di più, che tale fondo sia stato autorizzato dall'amministrazione pubblica come un subappalto, con un tasso di illegalità neanche facilmente immaginabile. E aggiunge: alterare gare d'appalto è minare la sopravvivenza delle imprese oneste. Inserire fondi milionari per la corruzione è sottrarre il medesimo denaro alle opere ai cittadini. Sono soldi sottratti ai lavori, sono rischio di uso di materiali scarsi e depotenziati, di controlli superficiali o di favori, di limitazioni nella realizzazione delle opere. Il GIP si preoccupa in particolare per la Sicilia, dove lungo le autostrade ci sono state frane e sono crollati ponti e viadotti. Ma la situazione non è molto più tranquilla in Toscana. Pochi giorni fa ha ceduto una piazzola della superstrada E45, sui cui lavori gravano numerose accuse e tangenti. Sotto l'asfalto sono emersi rifiuti speciali. I predecessori di Condotte a Firenze risparmiavano sui materiali, sugli antincendio, dei conci di sostegno del tunnel TAV, sulle palificazioni, sullo smaltimento dei fanghi provenienti dagli scavi. Questo lo ha documentato l'inchiesta della Procura di Firenze del ROS dei Carabinieri e della Forestale. Se qualcuno si ricorda, ne avevamo già parlato di questa inchiesta, di questa tranche di inchieste. Riprendo a leggere. L'avvento di Condotte avrebbe dovuto segnare una svolta anche in termini di qualità del lavoro. L'inchiesta siciliana solleva però più di un dubbio. È la ragione per cui il giudice di Messina invita a svolgere una verifica su tutti gli appalti dell'azienda, per impedire che il denaro pubblico si disperda anche in tangenti e correlativamente per assicurare che i lavori siano realizzati correttamente, senza che cadano viadotti dopo l'inaugurazione, che si usi materiale depotenziato, che si costruiscano a risparmio e senza controlli opere pericolose per la vita degli utenti. Ecco, questo era l'articolo, ve l'ho letto tutto perché appunto ci sono riportati diversi stralci delle indagini, come spesso accade, la nostra, anzi come quasi sempre accade, la nostra fiducia non è riposta assolutamente nella magistratura, perché indagini come queste sono documentate e ce ne sono state tantissime per quanto riguarda non solo l'alta velocità, per la quale basterebbe ricordare il libro nero dell'alta velocità, nella quale il magistrato imposimato rimette insieme tutta una serie di indagini e di dubbi, non di supposizioni, ma di indagini vere e proprie già dagli anni 90, in quella che doveva essere la Seconda Repubblica nascente dal disastro di Mani Pulite. E appunto questo invece nel 2018 è quello che sta succedendo. Insomma, in buona sostanza, in una situazione così complessa, dove il presidente Duccio Astaldi di Condotte SpA è coinvolto in una serie di indagini come queste, i lavoratori dell'alta velocità fiorentina hanno fatto questo sciopero di 8 ore con presidio, anche perché non hanno ancora ricevuto lo stipendio di febbraio, e scarse o molto preoccupanti sembrano essere le possibilità di andare avanti. Credo su questo che noi non dobbiamo fare particolare vittimismo, insomma, nei confronti dei lavoratori del sistema delle grandi opere, che molto probabilmente sanno un po' come funzionano le cose. Non stiamo qui dicendo che sono coinvolti in organizzazioni mafiose, ovviamente sono l'anello più debole di questa catena, sono chiaramente gli operai, gli ultimi lavoratori, è solo per dire che è anche dai lavoratori che dobbiamo cominciare ad aspettarci un cambio di marcia e un passo di consapevolezza, cioè basta chiedere lavoro, basta mendicare sulle grandi opere, perché le grandi opere poi sono questo, quindi sono per lo più, ammesso che cada qualche briciola, sono briciole. Il resto della torta ci viene sottratto in termini di soldi pubblici, moneta sonante, in termini di risorse collettive che vengono sperse e disperse e bruciate in questa forma, e quello appunto che cade sono briciole. A dimostrarlo ci sono anche i numeri dei lavoratori. Ad oggi nel cantiere della stazione Foster di Firenze ci sono rimasti 60 operai. Abbiamo, come più volte detto, visto bruciati 760 milioni di euro, e le prospettive per un termine dei lavori supererebbero i 2 miliardi, quindi ben pesante è il bilancio. Quindi ben poco guadagniamo come classi subalterne dalle grandi opere. C'è l'argomento del lavoro che aveva accompagnato ovviamente anche la fase di lancio dell'alta velocità, dell'attraversamento fiorentino, si dimostra per quello che è, cioè un abbaglio, un argomento retorico, una finzione, una affabulazione che il neoliberismo utilizza da sempre. Affabulazione che sta usando invece in questo periodo che segue per quello che è un'altra delle grandi opere sulla quale diremo alcune cose per poi andare a chiudere, che è l'aeroporto di Firenze. Sull'aeroporto questa settimana cercherò di riassumervelo senza leggere specificatamente nessun articolo. È ricorso sulle cronache locali di questa settimana proprio perché, come sapete, avevamo detto anche nell'ultima cronaca, ci sono state le presentazioni dei ricorsi dei comuni della Piana contro il decreto VIA che autorizzava a dicembre del 2017, quindi a fine dell'anno scorso, l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. Ampliamento che resta nonostante la VIA ottenuta a dicembre, resta comunque con forti prescrizioni e resta sottoposto alle verifiche e al controllo di un osservatorio ambientale. osservatorio ambientale che il decreto Galletti del luglio del 2017, che è stato in qualche modo denominato, definito o visto come decreto salva aeroporto di Firenze, nonostante sia un decreto nazionale che non riguarda solo Firenze e del quale, per chi gli interessa, ho parlato in un paio di stampe rassegnate fa, diciamo entrando un pochino più nel dettaglio, questo decreto non riguarda appunto solo Firenze, però sembrava e sembra davvero concepito ad hoc per permettere all'aeroporto di Firenze e alle sue procedure autorizzative di imboccare una corsia preferenziale che lo portasse a bypassare le tantissime prescrizioni che il Ministero dell'Ambiente ha dato sul master plan presentato da Toscana Aeroporti. Quindi questo osservatorio ambientale, il decreto Galletti ha permesso a Toscana Aeroporti di eliminare sostanzialmente dall'osservatorio ambientale tutti i comuni della Piana Fiorentina che avevano delle osservazioni critiche da fare sullo svolgimento e nel merito dei lavori per l'ampliamento e costruzione del nuovo aeroporto. Quindi questa esclusione dall'osservatorio ambientale ha suscitato alcune ire che si sono, ovviamente, questo è un elemento che non possiamo trascurare, incrociate più o meno virtuosamente con quello che è l'esito delle elezioni nazionali, con quello che è la vicenda più generale del Partito Democratico ai tempi di Renzi, quindi di Renzi e del Renzi bis, quindi nelle difficoltà del progetto politico del Partito Democratico, sicuramente ci sono degli elementi che si sono sfaldati, una coesione interna che aveva retto in questi anni intorno a un investimento fatto un po' da tutti sulla figura di Matteo Renzi, sicuramente ha cominciato a scricchiolare e sono viste cadere alcune tessere, diciamo, del domino. Una tra queste, di particolare rilevanza, è quella di Matteo Biffoni, il sindaco di Prato, che fino ad oggi era rimasto, diciamo, fedele a quello che era stato appunto, il ruolo assegnatogli da Renzi. Che lo aveva in qualche modo contraccambiato per la sua fedeltà, nominandolo presidente dell'ANCI Toscana, invece, appunto, cominciando a cambiare l'aria e il vento, anche Biffoni ha deciso di, appunto, imboccare la strada del ricorso. Ha fatto quindi questo ricorso al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, proprio perché l'ENAC, che appunto non aveva, come ho detto, gradito le famose 142 prescrizioni arrivategli dal Ministero dell'Ambiente, aveva eliminato anche il Comune di Prato, come tutti gli altri che hanno fatto ricorso, dalla partecipazione all'osservatorio ambientale. Quindi Biffoni, probabilmente preoccupato di rimanere un po', come si dice, col cerino in mano, insomma, o con l'asticella, di pescare l'asticella più corto e di rimanere con il due di picche in mano, visto anche che tutti gli altri sindaci della Piana Fiorentina avevano cominciato a fare ricorsi, si è deciso e ha fatto insomma, il ricorso. Ci sono state poi prese di posizione di tutti i tipi, abbiamo visto le arrabbiature di Eugenio Giani dalla regione, alle quali Biffoni ha risposto, insomma, in buona sostanza, dice fatti tuoi. Abbiamo visto invece il presidente della regione, Enrico Rossi, non più del PD ma con MDP-LeU, che minimizza la questione dell'aeroporto, dicendo sono tutte polemiche inutili e sterili, si tratta solo di girare una pista, l'aeroporto c'è già, mettiamo invece in discussione il termovalorizzatore. Quindi ecco, c'è un po' di tutto nella nostra piana. Abbiamo, per riassumere, 7 comuni della Piana Fiorentina e rispettivi sindaci che hanno depositato in questi giorni, in questa metà fine di marzo, i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale. Quindi abbiamo il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi, che è stato il primo sindaco, anche un'amministrazione non renziana, ma appunto, come si ricorderanno, i più, insomma, con coloro che sono più dentro le vicende della Piana, comune che è stato sottratto dai cittadini con le ultime votazioni comunali alla Biagiotti, renzianissima per andare in mano a Lorenzo Falchi, invece candidato di Sinistra Italiana. Poi il ricorso è stato presentato dal comune di Campi, è stato presentato da Prato, da Carmignano, è stato presentato da Calenzano, è stato presentato da Signa ed è stato presentato da Poggio a Caiano. Quindi sono sette i comuni che vanno al ricorso contro l'aeroporto. Poi nello stesso tempo abbiamo l'altra grande vicenda, che è quella dell'inceneritore della Piana Fiorentina. Per esempio Biffoni, il sindaco di Prato di cui ho parlato adesso, è uno di quelli che dice no all'aeroporto, al nuovo aeroporto, ma sì all'inceneritore. Dall'altra parte Rossi, come dicevo adesso, dice invece esattamente il contrario, cioè dice bisogna fare l'aeroporto, l'aeroporto è indispensabile e poi in fondo le polemiche sono inutili e sterili perché si tratta solo di girare la pista di un aeroporto che c'è già, invece io vi tolgo il termovalorizzatore e quindi anche con questa manovra di dire no al termovalorizzatore e quindi all'inceneritore, io alleggerisco il carico di inquinanti sulla Piana Fiorentina e questo mi permette ulteriormente di piazzare il nuovo aeroporto. Quindi stiamo vedendo un po' di tutto all'interno della nostra piana. Sicuramente sono tutti elementi sui quali torneremo. Crediamo anche appunto che sia importante che ci sia poi una presa di parola e di iniziativa da parte degli abitanti e dei cittadini e che niente venga delegato alla politica. Indubbiamente questi segnali di cedimento dello schieramento del PD, che fino ad oggi in qualche modo aveva retto, sono delle contraddizioni nelle quali il movimento, gli abitanti e le proprie ragioni si possono in qualche modo infilare, ma non ci sono elementi di effettiva discontinuità, cioè sono molte dichiarazioni su se stesse, si sconta chiaramente il clima di post elezioni, formazione del nuovo governo, arrivo di elezioni comunali o regionali, quindi sono tutti elementi molto soggetti e volatili proprio perché legati anche alla propaganda. Quindi l'iniziativa degli abitanti sicuramente sarà importante e non si spengerà. Spero appunto di non avervi confuso più di tanto perché le situazioni a volte sono un po' ingarbugliate, si ripetono nomi e cose, ma di sicuro ci torneremo nei prossimi giorni, nelle prossime stampe rassegnate. Per questa volta vi saluto, vi invito nuovamente ad ascoltarci in onde medie, alla modulazione di frequenza 1359. Oppure in streaming, in diretta lunedì alle 15:30, oppure in replica tutti i giorni, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì sempre alle 15:30, o al massimo scaricate il podcast e ve lo ascoltate ovviamente in bicicletta, quindi a emissioni zero, tenendovi in forma senza intralcio nel traffico, occhio alle buche, insomma, e ai vari pericoli, le strade sicure le facciamo solo noi. Un saluto a tutti e a tutte, pugno chiuso e buona lotta.